Quante volte ci hanno detto che assomigliamo al cinema d'autore, alla malinconia francese, a un fotogramma su pellicola, come gli attori dell'America. E nonostante questo non sappiamo cosa fare, quando il regista grida azione, forse è un problema di copione, di sceneggiatura, o era sbagliata la sequenza d'apertura. Non prenderemo l'Oscar per il nostro film, perché sbagliamo tutti i tempi comici. Ed io divento triste come Marilyn, ti chiedo scusa se canto tanti auguri e poi scappo. Buona la prima scena, eravamo felici, tante cose da dire, ma l'ultima è da rifare, l'ultima è da rifare. Era buona la prima scena, eravamo confusi, quasi esagerati, ci hanno detto che assomigliamo a una commedia nera, al buio di una sala vuota, a una retrospettiva su Godard. Ma tu sai che non vinceremo l'Oscar per il nostro film, perché alla fine abbiamo pochi meriti. Però non devi andare, adesso abbracciami, ti chiedo scusa se sbaglio la battuta, poi scappo.